Sono all'ospedale San Martino, è un momento di pausa relativa, nel senso che poco fa è arrivata un'ambulanza con una ragazza in stato un po' confusionale, intossicata, prima invece un via vai di ambulanze. Per ora abbiamo contato 14 feriti tra i manifestanti, sono soprattutto contusioni o intossicazioni. 10 gli agenti che sono arrivati e anche per loro soprattutto intossicazioni per i lacrimogeni, e a tutti viene fatta una doccia di decontaminazione. Ci sono però un ragazzo che abbiamo visto passare con dei lividi in faccia, respirava con la mascherina, comunque era sveglio, aveva gli occhi aperti, aveva un livido sul sopracciglio sinistro, sotto e poi sulla bocca dei segni di contusione, di colpi ricevuti. C'è anche un ragazzo contuso che faceva parte di un furgoncino del centro infortunistico del Genova Social Forum, che stava al corteo delle tute bianche dei disobbedienti. Dei poliziotti hanno sfondato i vetri del furgoncino, hanno tirato fuori due di loro, lui è stato caricato su un furgone, picchiato, e poi è intervenuta un'ambulanza e quindi portato qua. Comunque anche le sue condizioni sono buone, è soltanto contuso. In questo momento, proprio nel momento in cui le persone cominciano a disperdersi e a girare o in gruppetti piccoli o addirittura da soli, si sta scatenando una caccia all'uomo assolutamente indiscriminata. Mi è capitato pochi minuti fa di vedere una giornalista accreditata, con tatto di pettorina gialla e pass di accredito, presa da due carabinieri, portata dietro un furgone e manganellata da un gruppo di una decina di carabinieri a sangue. Una giornalista inglese, lei aveva una maschera antigas legata alla cintura, evidentemente questo è bastato per farla sembrare una manifestante o anche non so cos'altro. Credo che sia stata portata via da un'ambulanza e sarà andata a medicarsi. In questo momento però bisogna dire che è molto molto pericoloso girare da soli per Genova, soprattutto se si hanno addosso dei caratteri che fanno in qualche modo pensare che si è dei manifestanti. Questo è quanto per il momento. Sono stato testimone pochi minuti fa di un assaggio brutale di un ragazzo di 19 anni fermato da quattro poliziotti. L'unica colpa di questo ragazzo era avere una mascherina di quelle anti-smog, cioè del fumo. L'hanno fermato, l'hanno spinto contro il muro e l'hanno preso manganellate sulla testa. È arrivato un quinto poliziotto che gli ha dato manganellate di traverso sull'orecchio e l'hanno caricato sul furgone. Due minuti dopo sono stato in un altro episodio, una ragazza inglese, Susan, che mi ha rincorso dicendo mi hanno portato via il passaporto, sono tornato indietro per chiedere spiegazioni ai poliziotti, mi hanno dato uno spintone, mi hanno cacciato via, hanno preso questa ragazza, Susan, l'hanno caricata sul furgone e l'hanno portata via. Circa mezz'ora fa, un pestaggio violentissimo, sempre che in via Tolemaide, un gruppo di una quindicina di poliziotti ha preso un ragazzo che stava facendo fotografie, l'ha buttato a terra, hanno preso calci, gli hanno lanciato una spalla e rotto un naso. In quest'area, che è cambiato le maglie, adesso la situazione per ora si è tranquillizzata, ma la sensazione è che la caccia ai ragazzi che sono sparsi per la città e che hanno zainetti, vengono tutti messi a mi guardato dentro, gli vengono portati dei documenti. Almeno questo sta accadendo in questi minuti.